sei qua. Eccoci qua, arrivati. Ma noi non si è sentito, no? No, adesso deve darsi il magnello, raga. Se lo si vuole acciare, già si acciare ai nomi, già si intende. Già si sente, se vuole passare. Ah, a Rosetta, vai, tranquillo, vai. Cazzo, se lo saluti. Se ti sogna che si gambero, se non si rimagna. Prendemo. Certo. E allora, cazzo. Vabbè. Cazzo, stravagliente. Ma che bisogna se la fuori? Boh. Sto deve la mangiare di più. Mangia se lo vedo. Non credo. Certo. Ma che deve la mangiare cazzo? No. Certo. Travaglia. Se ne affutti, che a noi se ne tringocca e arrivederci. Beh, cosa è? A vedere che cosa è? Aspetta, che qualcuno magari e non sa come si fa a mangiare, però travagliamo fatta. No, non se ne tocca. Aspetta, travaglia tu la gruppo, stracca. Per mamma e babbo là. Una voce che ci si fa dire, una voce ci sono tre travagli in un'altra da fare. E la madre che ti diranno le tante di più che sia? No, e più che altro dovrebbero chiamarlo per il lavoro. Prima ti chiamano per il lavoro, se vedono che non c'è allora ti danno quel sussidio. Ah, ecco, beh. E beh, giusto così. Ecco, il travaglio più dopo si vuoi andare, se vuoi andare, ah no, si devo niente. Ma bisogna dire che la Meloni dice che ce lo dà a quelli che ci fanno una certa età, che non trovano lavoro, che non gliene possono dare, allora fa la domanda e glieli danno. Ah, così è. Ebbene, se no, ma che fai? Guarda, pure e mangia. L'unica cosa, ma prima di arrivare anch'io fa una domanda e poi lì si vede se da Dio o no. Ma già, ho io il coglio, non ti farà questo da prima. Da sì, per sempre la fila, ma un bel niente, mi piace, se senti, a che si cose che fa, vedi capito? La Caritas, qui c'è la Caritas, cioè. Ma per niente, chi si pigliava la cosa, faceva la vita. Non mi tocca più. E magari prima da anziani è una cosa che non abbia bisogno, chi non abbia bisogno sono i anziani. Ma la bestruccia va, no? No, che c'era, avevano fatto una specie di tesserino. Tu dai il tesserino, lo confrontano, se ti aiuta te lo dai, se non ti aiuta non te ne date. Allora ne combiate che hai danni. Allora ne l'hanno dato a chi si. Solo che dalle sono mi pare che c'è qualcuno che andate dare i suori, è compreso. Ero conto in banca a rimanere fermo. Ah, c'è che di cosa che non mi rompo. Tanto sale chi per che cosa andare lì. E magari non hanno bisogno puro, eh. Ma deve essere attenti, che non ci abbia qualche cosa da risolvere puro. Che vendiamo il longaggio, per carità. A Manuele. Mi sa che dice fa fuori. Se già mari, andiamo a andare, se lì dava il longaggio, se lo vendiamo. Un po' di roba a fare così, andava e pigliava questa cosa e se la vendiva uno all'altro. E perché da certe volte magari sono invece informati a chi dava la cosa, ma per la metà che aveva bisogno, invece che andava lì la cosa e se la vendiva, e allora? Ma è poco di gente roffia, chissà se li facciamo e poco, che vogliamo pure così, lo so di fatta. Ma va, a pochi a mamme, chi si rimane che c'è un tesserino, ragazzi, se no non mi va da fare. Ma non è ben così, se c'è il cambio, no? camperoni. Sì, già nel pancino ci sono scritti. E pare che gli stessi fiacchino che ne fumi le affendi. E dice in tuggia. Magari dire, insomma, magari pensiamo saltati con la birra. Tutte qua, fufi. Oh, hai sentito il fiacco? A che basta ivi? Ah, non so, adesso che è passato il fiacco. Andiamo. Ah, Manuel. Cazzo, io devo crescere. Sono dimagrito, 55. No. Andiamo. Ah, te ce l'ha Giovanni. Ehi, cazzo. Ma dillo più piano, che non si sente. Adesso vi credi la frigo, mio Manuel. Hai rubato un po' di battuto con la maionese, adesso come si sembra? Hai detto, poveretto, grazie, già di buona forchetta. Già, di buona forchetta proprio, certo. Deve crescere lì, il vicino. Poi si va alla tappa, è alla sedia. Andiamo, dai. E lì tu hai detto alla tappa, Manuè. No, ancora devo allattare, Gian Maria. E allora, infatti, mangi e via allora a questi figli. Tu latte da esci. Ma io già quando sono andato a fare la visita, la ghiacciata, mi ha detto... Lo cucciare lo deve toccare, ora tu da pigli per mangiare. Non ti l'ho detto a fare diretta, no? Già mi ha detto, guarda, ti voglio bene, 10, 8, almeno 4 kg, dai, sei una parola, dottore. Se te l'ha detto, devi parare allora un po', carino. Devi scendere, sennò sono un cavoli amari. Ehi, tanto è, mi si bussa, da me puro. No, a me che non voglio venire a farti visita. Certo, ma lo bevo. Se io devo venire, io devo essere in giro. Ma no, mi metti qualche fiore sulla bara. Ehi, io non sono in cibi. Cosa fiore? Un cagarazzo si è affurita a te. Il fiore costava bene, basta poi un cagaranzo da letto. Infatti, perché il fiore di cagaranzo gli avrei giallo, quindi la buglia, ti faccio un mazzo. Io si può fare già Manuele, dai. Già che è sacrificata la vita così, se non si scalza, allora andiamo proprio allo fascio. Vabbè, così ce la teniamo, piano piano già andiamo avanti. E adesso mi preparo, mi porto la doccia, la buva, sono le 8, alle 9:30 mi imbarco per andare a lavorare. Così è. E allora ci dobbiamo salutare. No, cosa salutare? Altro coreale, so, cosa salutare? Mi imbarco nel senso. Non lo so, 10:30. Ah, devi fare dalle 10:30 alle 6:30. Ma non manco buono, so. E cazzo di no, addirittura 8 ore, cazzo. E io pensavo di farmi di più poco. Cara di più passato. Allora iniziate a migliorare, cioè. Forse la Luca Ferri migliore già ancora. Ma per carità, me due mi hanno licenziato oggi, due si danno con TV. Perché non servivano, però cazzo, boh. E cosa serviva? Andava lì per cazzo con la caccia della birra, con lo Brasile, per dire la Russia. Ma niente, sto scrivendo di niente, ma esagerei già la questione, il centravalli questi non andava bene. Scherzi, a parte gli scherzi, la sera andava con la quel frigoriferi portatili, con la birra piena, andava in briaca a travagli, l'hanno vista una volta, due volte, a destra c'era il cultura. E hanno fatto bene, cazzo, se ci calma. È giusto che sia così, cazzo. Anche a portare succedere tante cose, per cui ti sei qui in condizione non tanto buona, cazzo, la questione sia. E hanno fatto bene allora. Ma non vale male niente, Gian Maria, non c'è che metti gente che è come che non c'era. Poi venivano quelli del cartiere, vedevano così, cazzo, facevano un rapportino. E beh, allo Quirio. Niente seria, ma sul lavoro, qualsiasi tipo di lavoro che sia, devi essere perfetto, è poco quello che fai, lo dico io, ma può succedere anche qualche volta così, ma una volta, ma non due. E quando dovevo andare a lavorare non sai detto che cosa, non ci andavo, perché sapevo che dovevo andare a lavorare la sera. Ma questi in casa andavano a fare la nevica, entravano in briaghi, cazzo, travaglienti, no! E bisogna tanti sempre queste persone, là. Ci sono tanti sempre, e tu sai qualcuno che si dirò che era sempre imbriaco, oh, là, per carità. E quelli hanno avuto sempre più fortuna. Così è, beh, hanno avuto più fortuna, sì, vai to. Infatti sciogisci che contano il tutto, che poi non te lo meriti se te arrivi imbriaco o coso, prima o poi qualche cosa ti succede. Vabbè, per carità, va bene, va, riprendi, va bene, riprendi. La gente lì è meglio lasciarla a casa, cosa mi fai? Non mi fai nulla, bruttissima niente. Dopo avrebbe dato un polacco, Zaira, uno, ma per carità, mi diceva devi fare tot di ore, allora entrambi, mi diceva entrambi, adesso sì, no, entra, usciva, adesso sì, allora, lui entrava la sera, sì, entrava lì alle 6:30. Cazzo, bellaghi che fate di capo, perché l'italiano non capiva. Fate di capo, cazzo, se ne andava da più di un'ora, lasciava scoperto il servizio, una bocca, due bocche, alla destra della cultura. Fai tu. E come fa un'azienda a andare avanti con queste persone del genere? Non lo so io. Ma è un'azienda, lo lascia perdere, Gian Maria, non va con niente un'azienda lì. Un'azienda di veri freghisti. Come tanti che sono tutti benefici, uno si è caduto tutti l'altro. Gian Maria, mi assento un attimino, vengo subito. E a sto glocchi. E a sto valore. Ci vuole gente seria. Io dico solo a posti per una volta, ma da voi la questione come sta pensando, ma dove? Giovanni, io guarda, non per vantarmi, io quando ho iniziato a fare questo lavoro qua, avevo 25 anni, 24 anni, quando ho iniziato a Milano. Ed ero sempre mezz'ora prima a lavorare, mezz'ora entravo prima a lavorare, sempre mezz'ora prima, mai in ritardo, mai. Tu vai lì che a orario spaccato, a orario spaccato, a orario cazzo tutti i gatti bocchimari, ero qui, ero là, ah vai. Allora sai quante ce ne sono di questi qua, non hai idea, per carità. Ma ci sono sempre stati, ma lui. Adesso mi sembra che peggio ancora. Lui peggio ancora, lascia perdere, quelle zone nobili dove siamo noi, lui. Lascia perdere. Quanti siete voi in quella azienda? Adesso siamo 1, 2, 3, 4. Siamo in 14-15. E mezza quindi e magari saranno che di due marci. Quello di due, più di due me ne so. Beh, succede così. E certe volte tu magari più bene tratti e più male ti trattano. Vabbè, oggi è così, in molti posti. Sì, anche così. Bene, ti comporti più peggiorare. Questo qui intanto si comportano quasi 23 giorni e non li ritenevo. Sono gente meno fritta, si creano so che cosa. E poi in fondo sono persone che da eliminare, ecco. Infatti la sera domanda lei adesso due le hanno mandato via, ma vanno andare sotto un altro, questo è un mette io, lui ha. Ho fatto il tuo lavoro tranquillo a consentire il latte mai sveglia. Ah, a me non mi deve rompere il cazzo di mio figlio, so che di poche parole, me la devi dire in faccia qualcosa. Ma va bene. Amici più di prima, ciao, fammi licenziamento e me li sono candenti. Vabbè, allora le faccio così, allora. Per carità. Vabbè, ma io ho chiuso, dai, sentiamo le prossime. Con presumetto, ci sentiremo. Sì, Giovanni, dai, in caso che sono libero di mattina, già mi faccio una scappata lì. Già ci sentiamo, dai, ci vediamo. Ciao Giovanni, buona cena, buon tutto, dai, ciao, ti ascoltiamo. Ok, ciao Giovanni, ci risentiamo alle prossime. Ok, ciao Manuel, ci risentiamo. Ciao Toghe, adesso chiudo, posso una luce, mi sbaglio un pochettino, qui sarei 9:30, da voi andate a vagliare. Ciao, ci sentiamo Toghe. Ok, ciao, anche a te, ci sentiamo, buon proseguimento. Ok.